A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Il problema è che proprio non c'è sbocco a questa abitazione, cioè una volta usciti fuori di casa si perde un po' l'orientamento. Anni dopo, l'Aquila non l'ha ancora ritrovata la sua bussola, persa insieme ai punti cardinali saltati il 6 aprile del 2009 e mai sostituiti, crollati insieme alle sue case, coperti dietro la gabbia di tubi innocenti che comprime tuttora l'intero centro storico, privato di vita come di prospettiva. 3 anni dopo quel terremoto che uccise 308 persone, l'Aquila cerca di fabbricarsela una nuova bussola tra le New Town che ospitano i 19.000 sfollati tutto intorno al grande cratere, nei condomini dormitorio che qui ancora chiamano le casette di Berlusconi, nei centri commerciali che hanno preso il posto di piazze e struscio. C'è silenzio nelle poche strade riaperte del centro, non quel rimbombo di cantieri e lavori che la gente auspicava, ma che potrebbe cominciare solo col piano di ricostruzione che il sindaco uscente ha appena presentato a poca distanza dalle elezioni. Allora, nel centro storico diciamo che più che altro per la sera, quindi soprattutto nell'ultimo periodo molti ragazzi si ritrovano qui in centro storico, oppure anche a Viale della Croce Rossa, dove sono i locali. Quindi dove stanno riaprendo dei locali trovi ragazzi. Di giorno diciamo all'università oppure nei centri commerciali. Vi ritrovate e date appuntamento nei centri commerciali? Sì, diciamo che la maggior parte delle persone sì. Diciamo che qui io direi veramente la precarietà è all'ordine del giorno e si respira veramente ogni giorno, perché è proprio una situazione complicata a livello cittadino. È chiaro che quando mancano tutti i punti di riferimento, anche chi ha avuto la fortuna di poter rientrare subito nella propria casa si trova comunque sperso e smarrito. L'orientamento l'hanno perso anche i più giovani, nel centro tuttora incelofanato come un'installazione di Cristo per la scomparsa dei punti di riferimento. L'orientamento è difficile da ritrovare nelle palazzine tutte uguali del progetto Casie. Una delle più grandi è a Bazzano, circa 2.000 persone, e qui vive anche Fausto Gragnoli. Diciamo 6 chilometri per la Fontana Luminosa. Quindi circa 6 chilometri per arrivare al centro storico dell'Aquila, quindi una distanza che non si può fare a piedi, diciamo. Entrando dentro la vostra casa, siete in 4 in quanto spazio? 56 metri quadrati. 56 metri quadrati in 4, senza altre possibilità di sfogo con lo spazio. Che cosa vuol dire vivere? Vuol dire che ci vogliamo bene, ci si sopporta un po' e si va avanti. La vostra casa è nel centro storico? Prima periferia, zona Torretta. In che condizioni è? I lavori sono partiti, ci vorrà almeno tutto l'anno, se non un anno intero, per rientrare. Ecco, però siete tra i fortunati. Fortunati, sì, assolutamente. Dal punto di vista dell'abitazione siamo i fortunati. Sì, abbiamo già una tempistica abbastanza oggettiva. E questo forse rende anche più semplice, diciamo, sopportare la condizione attuale, perché si intravede un po' una scadenza, no? Perché si vive di step, si vive di orizzonti che si spostano ogni attimo, ogni mese un po' più in là. Prima c'era il rientro in città, poi c'è stato il rientro a scuola, poi c'è stato il rientro alla vita più o meno normale, adesso si intravede la possibilità di rientrare in casa e quindi si vive di queste cose. Tutto sommato un tetto ce l'abbiamo tutti, il problema è che proprio non c'è sbocco a questa abitazione, cioè una volta usciti fuori di casa si perde un po' l'orientamento. Ecco, lei ha usato una bella espressione, quella del perdere l'orientamento, perché tutte le persone che sono state sradicate hanno appunto come perso la propria bussola, i propri punti cardinali di riferimento delle proprie abitudini. Così, c'era una vita da passare sul panettiere messo lì, sul salumiere che vendeva quello che faceva il prosciutto più buono, il caffè all'angolo. C'era un insieme al centro di luoghi che ognuno ritrovava quotidianamente, il mercato con l'amico commerciante e il fratello che lavorava su ai quattro cantoni, quindi c'era tutta una serie di posti dove poter arrivare, e oggi, non essendoci più tutto questo, essendo tutto sparpagliato, uno perde orientamento, non sa dove andare, o vado da una parte o dall'altra. Anche perdere appunto i propri vicini di casa, che casomai ci si ritrova, o i propri amici, ci si ritrova e ci si rivede dopo settimane, mentre prima ci si incontrava un po' per caso nel centro. No, gli amici bisogna organizzarsi, cioè ci dobbiamo telefonare e vedere in un punto che poi alla fine è o il cinema o la pizzeria, i vicini di casa, le riunioni di condominio. La fortuna di prima che il terremoto cambiasse tutto, la fortuna di avere un'abitazione in pieno centro, ora per tutte queste famiglie, è la maledizione di non avere ancora tempi e prospettive. Dopo discussioni, lacerazioni e dibattiti, dopo scontri politici locali e nazionali, il sindaco uscente Massimo Cialente, PD, ha presentato un suo piano per il centro storico. Ma a maggio si vota e il terremoto sarà il vero grande elettore dell'Aquila. Nel frattempo, un misto di rassegnazione e impotenza si respira tra i vialetti senza storia e con troppo ordine delle nuove case dove la vita scorre sempre uguale. Zona rossa o ce l'avevamo E, significa molto danneggiata. Per cui chiaramente tutti quelli che stavano in zona rossa, quindi la ricostruzione non è proprio partita per nulla, perché in zona rossa al centro storico non si sa ancora che cosa bisogna fare. Non c'è la possibilità, neanche volendo, anche avendo un'abitazione non tanto danneggiata, ma essendo in zona rossa non si può riandare, sia perché mancano i servizi, sia perché proprio nelle zone rosse non è possibile ricostruire nulla, neanche raggiustare se ci sono piccoli danni. Se non fai rivivere un po' il centro, le zone principali, non rimetti qualche negozio, qualche attività, non cerchi di raggiustare subito il raggiustabile di quello che è il centro, questa città è una grande periferia, pure il centro è una periferia perché non c'è nulla. E rimarrà, periferia non si sa di quale centro. Non si sa e non c'è più un centro, non esiste più un centro, è tutta una periferia, queste case messe qua, alcune qua pure in contesti carini, ma comunque lontane da tutto, prendiamo una persona anziana, insomma, non. E poi sono state, le comunità sono state totalmente disgregate e portate qui in un posto, qui in un altro, qui in un altro, per cui non esiste più. Io ho dei parenti da tutto l'altro lato della città, per vederci dobbiamo fare 30 chilometri ogni volta. È tornato invece a casa sua, alle spalle di quello che un tempo era il cuore dell'Aquila e che invece ora è solo un cuore fermo. Davide Ammaniti, uno dei più fortunati, ammette, con una voce che però non ha nulla di gioioso, ma tanto di dolore, depressione e rassegnazione. Abito in un palazzo al terzo piano, i primi due piani sono stati sventrati completamente. Dal terzo piano in poi hanno lasciato le mura esterne e rifatto il cappotto. Tra tutte le persone che ci sono in città, io sono tra quelli che hanno mantenuto il proprio lavoro e ora vive a casa propria tutti insieme, quindi veramente fortunato rispetto a tanti altri che hanno una situazione complicatissima, mutui da pagare, senza lavoro e senza casa. Vi ritenete proprio in una ristretta cerchia di privilegiati? Sì, privilegiati, anche se mia moglie ha perso il lavoro, lei lavorava in centro in una gioielleria, io in centro benessere e lei per fortuna è riuscita a venire da noi. Che effetto vi ha fatto innanzitutto rientrare nella vostra casa? La verità, allora, stavamo in una stanza da hotel in cinque a dormire con un cane e una mamma di 85 anni, non è stato facile. E pensavo sempre, adesso quando tornerò farò così, farò cosà, e invece poi rientro, cioè, non è stato come pensavo. Rientrare in casa dopo che si è stati via 2 anni e per il terremoto, che effetto fa? Si rivive quella notte del terremoto? Ha la sensazione di tornare in una casa che si sente all'improvviso essere un pericolo oppure no? Allora, io spero presto di potermene andare da lì, perché sono al terzo piano in alto, non è sicuramente sicura. La gioia è smorzata dai pensieri, no? La preoccupazione che presto devi andare via perché non ti senti sicuro. Un po' di gioia è venuta perché comunque ti sei tratto di nuovo, abbiamo comprato qualche mobile nuovo, ma non basta tutto questo per colmare la tristezza che c'è. Questa tristezza però è da incoscienti, da persone poco ragionevoli, perché io sono rientrato a casa mentre la gente sta ancora sbirigata in queste casette di Berlusconi, quindi è un capriccio il mio, no? Però io non riesco a farmelo passare, perché comunque sto a casa, sì, ma non è più l'atmosfera che c'era una volta, perché sempre ci pensi di notte quando vai a dormire, ci pensi di giorno quando ti ricordi che lì che c'erano quelle crepe terribili. Intorno alla vostra casa, ecco, ci sono persone che sono rientrate come voi, oppure anche allora, voi avete perso i vostri punti di riferimento come vicini di casa, luoghi? Qua, allora, nel mio palazzo io sono stato il primo a rientrare su 13 inquilini e quindi rimbombavano le nostre voci, era tutto buio intorno. Dopo qualche mese si è riempito il palazzo intero e anche intorno a casa nostra comunque c'è una finta normalità. Abbiamo perso completamente i punti di riferimento. Ho due ragazzi di 19 anni che passano il giorno a casa a Facebook anziché andarsi a fare il giro come facevano i ragazzetti come ho fatto io a 20 anni. Tanto è vero che mio figlio gli è venuta la psoriasi per lo stress loro accusano tanto questa cosa perché non c'è un posto dove andare tranne un centro commerciale che sta a qualche chilometro da qua. Per loro, per i più giovani, il silenzio e il vuoto di questa città è come una prigione senza barriere da cui non riescono ad uscire, come da questa condizione, tutta uguale a se stessa da troppo tempo. A ciascuno il suo. Davanti al suo centro storico ancora chiuso, L'Aquila aspetta ancora, ma 3 anni dopo quel terremoto che ha ucciso 308 persone, svuotato di vita il suo centro, L'Aquila attende ma anche guarda con fiducia sia alle prossime urne di maggio che, ancor di più, la nuova linea del governo che ha preso su di sé la gestione. I soldi ci sono, sul terremoto l'Italia ha investito 10 miliardi di euro, calcola Fabrizio Barca, ministro per la coesione territoriale, che a Radio 24 dice entro il 2012 partirà la ricostruzione anche del centro storico. Assicurare che i cittadini dell'Aquila siano trattati in modo rigoroso, avendo la ricostruzione dell'Aquila fatto una scelta molto rivolta alla assoluta autonomia dei singoli cittadini privati, il cittadino deve essere affiancato e deve essere rassicurato che si sta affidando ai soggetti giusti. Gli interventi di rigore sono tutti stati rivolti a costruire ad esempio una lista di imprese di costruzione, come si fa normalmente ovunque, dai quali poi i cittadini potranno estrarre le imprese che desiderano, sapendo che quelle imprese sono state scrutinate sulla base dei normali verifiche di non collusioni con la criminalità organizzata e di standard di qualità, ovvero quando una ditta prenderà un impegno con loro di realizzare gli interventi entro una certa data, se quella ditta non manterrà l'impegno verrà pesantemente sanzionata. La questione principale è far ripartire il centro dell'Aquila. Sono stati presentati un progetto, un piano sia dall'amministrazione uscente, un altro anche dall'OCSE. Lei pensa che questo possa rappresentare un elemento di divisione? C'è un ritardo nella partenza della ricostruzione del centro dell'Aquila? Il ritardo c'è, si è accumulato nell'ultimo anno e mezzo ed è legato al sopravvenire all'interno di una città che ha conosciuto una fase di grande fiducia, anche di grande capacità di reazione nella fase emergenziale, nel sopravvenire di tensioni tra diversi livelli e componenti delle pubbliche istituzioni e anche sfiducia da parte dei cittadini. Questo ritardo è esattamente ciò che stiamo cercando di eliminare e i due diversi piani sono su livelli e su differenti che non solo non creano nessun rischio di ritardo, ma anzi promettono di accelerarlo. Perché? Perché il piano di costruzione è presentato dal Comune, si muove sul piano di soddisfare i requisiti previsti dalla legge affinché la ricostruzione possa avviarsi. Viceversa, quello che per l'OCSE e l'Università di Groningen hanno presentato sono delle linee di indirizzo per lo sviluppo e il rilancio della città che offrono delle sponde, delle idee lungo le quali quali la ricostruzione potrà avvenire. Ecco, Ministro, è possibile formulare una previsione per la partenza significativa di una ricostruzione del centro e anche una valutazione di quanto tempo sarà necessario perché appunto ritorni un po' di vita nel centro storico dell'Aquila? Tutte le ricostruzioni avvenute, anche quelle che hanno avuto maggiore successo, hanno avuto tempi mai inferiori ai 10 anni, e è difficile fare previsioni quando la qualità dell'informazione e dei dati è modesta, quando in qualche modo non è facile neppure per il Ministro della coesione territoriale incaricato dal governo di occuparsene raccogliere informazioni sullo stato di quello che è stato speso. E questo è quello che abbiamo fatto in queste settimane. Adesso abbiamo una base informativa. La prima previsione è che entro la fine di agosto tutti i cittadini delle aree periferiche avranno i loro progetti, anche i più complessi, approvati. Per quanto riguarda il centro invece, si può immaginare che entro la fine del 2012, quando anche diciamo almeno al momento è assicurato lo stato d'emergenza, possa partire una anche ricostruzione prima. Quindi prima della fine del 2012. Certamente. Questo è un impegno che lei si sente di assumere con l'Aquila? Non è un impegno, è la valutazione che viene fatta da tutti i soggetti che lavorano e che è ragionevole assolutamente realizzare. Se 10 anni si fanno partire da appunto dai prossimi mesi, 2022 come un ritorno quasi alla normalità del centro dell'Aquila? Non credo, ci vorrà di più. L'ho detto 10-12 in situazioni più semplici. Fare una previsione oggi non è ragionevole. Quello che si può della fine della ricostruzione, quello che si può prevedere è quando inizierà, ed inizia nel 2012, del centro storico, dal 31 di agosto, ma anche prima di quella data la filiera si potrà occupare anche del centro storico. Questo è il segno dell'avvio, non certo della fine, che potrà essere prevedibile soltanto quando saremo dentro al processo di ricostruzione. C'è stata troppa burocrazia, troppi passaggi, troppe autorizzazioni, cioè per questo in questi 3 anni per il centro ancora non è partito nulla? No, non credo. Questa è un'altra di queste che ho chiamato, scherzando, le favole, diciamo, che si raccontavano all'Aquila per coprire responsabilità, diciamo, che sono sia di soggetti privati che di soggetti pubblici. Il punto è che era calata la tensione amministrativa, il senso di responsabilità e, come sempre, dando poca informazione ai cittadini, i cittadini non sono messi nella condizione di arrabbiarsi con le persone giuste, di usare la loro pressione politica, e quindi alla fine all'Aquila c'era un gran rumore, un grande accusarsi reciprocamente, è una reciproca paralisi, non legata alle procedure, legata a un clima di sfiducia reciproco. Evidentemente era anche un clima di sfiducia nei confronti di un governo centrale che si era allontanato. Non si può immaginare che un paese che fosse sopraggiunto, come il Presidente del Consiglio ha detto, sull'orlo del baratro, potesse avere una città che non risentiva di questo processo. Se il paese intero era sull'orlo del baratro, è evidente che anche la ricostruzione di quella città ne ha risentito nello stesso modo e per le stesse ragioni. Le rassicurazioni dell'esecutivo confortano i tecnici aquilani, che denunciano però tuttora l'assenza di direttive precise, che peronna invece il paesino simbolo di questo terremoto per il suo altissimo numero di vite. Il paesino adottato dalla Germania sono state da subito ben chiare, come ricorda Antonello Ricotti, uno degli ingegneri che ha proprio seguito il piano di Onna. Certo, una cosa è sicura, che mentre su Onna esiste il piano di ricostruzione e il piano di ricostruzione detta determinate deroghe al piano regolatore della città, sul capoluogo, sul centro storico, queste nuove regole non ci sono. Noi non abbiamo delle certezze sia di carattere economico che di direttive proprio tecniche. Cioè, oggi abbiamo una ricostruzione a 1.200 euro metro quadro lordo, che poteva valere in qualche modo sulla periferia, ma non ci si fa assolutamente sul centro storico. Ci mancano anche i parametri economici di ricostruzione. Non si può riparare un edificio nel centro storico, non può essere paragonata la ricostruzione a una palazzina in cemento armato della periferia. Qualcosa si è mosso fino ad ora nel centro storico solo intorno a quei palazzi di particolare pregio, sotto quindi il vincolo della sovrintendenza, perché questa poteva saltare passaggi e trafile. Siamo partiti esclusivamente su quei cantieri dove non c'è l'obbligo di andare sulla filiera, quindi di imbarcarsi in queste grosse difficoltà. E sono i cantieri quelli i cui palazzi, il cui aggregato, per intero, al 100%, è sotto vincolo della sovrintendenza. per la normativa ci sono palazzi privati sotto vincolo, che peraltro hanno la possibilità, in quanto sotto vincolo, di avere un finanziamento doppio degli altri. Nel frattempo che il cuore antico dell'Aquila riprenda a battere, sono i più giovani e i più anziani quelli che soffrono maggiormente, i secondi perché forse non ritorneranno più alle loro abitudini, i primi perché costretti spesso in spazi chiusi. Così si sta impegnando per una riapertura dei campi sportivi un ex rugbista della nazionale, Carlo Caione. Si sta lavorando per ripristinare i vecchi, le informazioni del nostro possesso danno un primo sblocco di ripristino delle vecchie strutture che speriamo verranno restituite alla città il prima possibile. Avendo anche 3 figli adolescenti, riesco a vedere da parte loro una difficoltà oggettiva nella socializzazione. Lei per la cittadella dello sport si sta spendendo molto, si sta impegnando. Ecco, che progetti ci sono e quali difficoltà state incontrando? Le difficoltà burocratico-politiche sono enormi. Attraverso la nostra associazione, che è Forza L'Aquila, abbiamo cercato di essere collaborativi raccogliendo fondi per quanto riguarda l'ideazione di nuovi centri sportivi. A ciascuno il suo, termine qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce e anche sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra e buona Pasqua.